Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Misure per il rilancio dell'economia. Il governo sigla l'accordo sul credito con le imprese. Per il ministro Tremonti è il momento di puntare sulla crescita. Mille proroghe, ok al voto di fiducia al Senato. Il Partito Democratico denuncia una finanziaria pasticcio, si divide Futuro e Libertà. Scontri in Iran e Libia, l'onda egiziana contagia anche il resto del mondo arabo. In Tunisia altre migliaia di persone pronte a sbarcare in Italia. Sanremo, buona la prima per Morandi, record di ascolti, superata la prima serata dell'edizione della Clerici. Buongiorno da Alessio Maurizi e benvenuti a questa edizione di GR24. In primo piano la giornata politica con le misure per il rilancio dell'economia proposte dal governo all'indomani di un vertice tra Berlusconi e leader della Lega Bossi, che ha chiesto di dare una scossa all'esecutivo, e mentre monta ancora il caso dell'inchiesta Ruby in vista del processo che ci sarà il 6 aprile e che vedrà impegnato il Presidente del Consiglio. Ma dicevamo, di questo parleremo più avanti, dicevamo la parte economica. Andiamo subito a Palazzo Chigi, dove è ancora in corso la conferenza stampa di presentazione di queste misure che riguardano le piccole e medie imprese. Adesso si apre una fase diversa, improntata alla crescita, ha detto poco fa il ministro dell'economia Giulio Tremonti. Andiamo con Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Un appuntamento, quello di Palazzo Chigi, che ha permesso di fare un nuovo accordo tra governo, banche ed imprese per la filiera del credito relativa alle piccole e medie imprese, un'intesa che segue la moratoria che nei momenti più difficili della crisi ha consentito di non chiudere i rubinetti dei finanziamenti al mondo produttivo. Di qui la soddisfazione odierna della presidente della Confindustria, Emma Marcegaglia. Sentiamo le sue parole e i contenuti dell'intesa. Uno strumento molto importante che aiuterà le imprese in questo momento di uscita dalla crisi, ma ancora complicato, e noi ci aspettiamo un'altra ulteriore massiccia adesione a questo aspetto, a questo strumento. Quindi noi lo diamo molto importanza, ringraziamo l'ABI che ha dimostrato grande apertura, ovviamente ringraziamo anche il Ministero dell'Economia che ha coordinato questo lavoro fatto. Dell'accordo sulla proroga della moratoria dei debiti delle piccole e medie imprese hanno parlato anche il Presidente del Consiglio Berlusconi e il Ministro dell'Economia Tremonti. Si tratta di una misura che aiuta tante, tante piccole e medie imprese, ha detto il Premier. Continua, ha aggiunto Berlusconi, il lavoro del governo per tenere a posto i bilanci dello Stato. E proprio sui conti pubblici è intervenuto il responsabile dell'economia, che ha rivendicato i meriti dell'esecutivo. Sentiamo allora Tremonti. Conti pubblici non è un'astratta ragioneria. Noi abbiamo, e l'ha detto il Presidente, abbiamo tenuto il bilancio dello Stato. Il bilancio dello Stato contiene il risparmio, contiene valori fondamentali per la vita del Paese. Quindi molto più che tenere in ordine i conti. Adesso si apre una fase diversa, ha detto ancora Tremonti, tenere i conti pubblici ma anche ragionare sulla crescita e sul mezzogiorno. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. E prima di passare alla parte politica, c'è da dire che oggi il governo ha incassato la fiducia al Senato sul decreto mille proroghe, con 158 sì e 136 no, 4 gli astenuti. Molte le misure contenute, tanto che l'opposizione parla di una finanziaria pasticcio, ma sentiamo. Primo giro di boa per il mille proroghe, che incassa con 158 sì e 136 no la fiducia a Palazzo Madama. Votano a favore PDL e Lega contro le opposizioni, mentre Future Libertà si spacca. In cinque non partecipano, mentre un altro si astiene, nonostante l'indicazione a votare contro del capogruppo Viespoli. Tra le principali novità, l'aiuto fiscale alle banche in vista dei maggiori vincoli di Basilea 3, la tassa di un euro sui biglietti del cinema, la proroga sul pagamento delle quote latte. Previsto poi il ripristino, anche se solo in parte, dei fondi per l'editoria e le TV locali, via libera la tassa sui terremoti e rifiuti, al mantenimento del blocco degli sfratti per le famiglie disagiate, infine la possibilità per Poste Italiane di acquistare quote della futura Banca del Sud. Fortemente critico il PD, non è più un mille proroghe, ha detto la capogruppo Finocchiaro, ma un provvedimento che ha la solennità di una manovra finanziaria, una finanziaria pasticcio che aumenta le tasse e premia chi non rispetta le regole. Alessandra Skepisi, Radio 24, il sole 24 ore, Roma. Non sono per niente preoccupato, così poco fa Berlusconi, sempre alla conferenza stampa di cui stavamo parlando poco fa a Palazzo Chigi, con il ministro dell'economia Tremonti, è intervenuto appunto sulla vicenda delle inchieste. Adesso però facciamo il punto sulla situazione politica con Elisabetta Fiorito, buongiorno. Buongiorno, in pochi giorni la nostra maggioranza sarà a 325 deputati, a dirlo è il premier Silvio Berlusconi che ribadisce l'intenzione di andare avanti e puntare all'azione di governo. Tant'è vero che è sceso questa mattina in conferenza stampa vicino a Giulio Tremonti a Palazzo Chigi per annunciare il piano per la piccola e media impresa. Un premier molto sobrio che vuole lasciarsi alle spalle lo scandalo Ruby, non risponde alle domande riguardo al giudizio immediato, ma dice solo di non essere per nulla preoccupato. Intanto nel PDL continua la difesa del premier, sentiamo Maurizio Lupi. Innanzitutto Berlusconi non sarà condannato perché non ci sono i presupposti, nel senso che è evidente quello che sta accadendo, come accade da 17 anni a questa parte, nei confronti del presidente Berlusconi. La novità del rinvio a giudizio del processo immediato mi sembra che era una cosa attesa, non mi sembra che sia questa grossa novità. Andiamo avanti nel lavoro che abbiamo da fare, non vedo altre questioni. E dall'opposizione Antonio Di Pietro dell'Italia dei Valori chiede l'Election Day, referendum sul legittimo impedimento e ballottaggio per le amministrative. Dal Partito Democratico invece si continuano a chiedere elezioni anticipate e anche dal mondo del lavoro il segretario della CIS Bonanni parla di vicenda imbarazzante. Per il momento qui da Montecitorio è tutto, voi studio. E in vista del processo che si inizierà il 6 aprile a Milano sul caso Ruby ci sono nuovi elementi, sentiamo di che cosa si tratta con Raffaella Calandra. L'evidenza delle prove che manda il premier direttamente a processo sono due fatti, oltre a verbali e intercettazioni, a pesare soprattutto nel fascicolo esaminato dal GIP che ieri ha disposto il rito abbreviato, sono due elementi concreti. L'affido di Ruby alla consigliera regionale Minetti dopo la telefonata di Berlusconi in questura e poi, come già vi abbiamo anticipato, le tracce del cellulare dell'allora minorenne marocchina che dimostrano la sua presenza ad Ascoli per più giorni di seguito. Elementi concreti che fanno scrivere al giudice che i fatti storici sono accertati, elementi a cui nelle 15 pagine delle fonti di prova si affiancano i rapporti su soldi e regali e poi, dopo i fatti, le parole, quelle intercettate e quelle messe a verbale. Nelle 782 pagine mandate dalla procura al GIP ci sono i racconti di tre testimoni importanti, due amiche della Minetti e la brasiliana Bernardi, insieme ai cinque verbali della stessa Ruby, che ricostruisce tra l'altro il giorno in cui disse al premier che era ancora minorenne e lo fece quando lui le propose di intestarle un appartamento del residence dell'Olgettina. Come già agli atti, Berlusconi, stando alla versione di Ruby, le avrebbe detto di rivedersi dopo il suo 18° compleanno. Ma per coprire il reato di aver avuto rapporti con una minorenne, il premier, scrivono i PM, commise un altro reato, la telefonata in questura per chiedere il rilascio di Ruby, presentandola come la nipote di Mubarak, una versione che lui stesso avrebbe suggerito di ripetere alla giovane marocchina. Nel fascicolo ci sono anche altri stralci di intercettazioni sui preparativi delle feste, ma il resto invece è nel troncone principale di indagine contro Fede e la Minetti e Mora, che la procura conta di chiudere entro questa settimana. Se questa è l'inchiesta che dal 6 aprile vede a processo il premier, fuori dall'indagine c'è il filone napoletano e romano, all'interno del quale è stata sentita la showgirl Sara Tommasi e c'è poi la compravendita di foto e video che non sono agli atti, come quello con le riprese di Noemi Letizia a Villa Certosa pubblicato dal sito del giornale. Ma questa è tutta un'altra storia. A voi. Grazie dunque anche a Raffaella Calandra per questo punto sull'inchiesta Ruby. E intanto con le ipotesi di elezioni anticipate sullo sfondo, anche se poco fa nuovamente Berlusconi da Palazzo Chigi ha confermato noi e la Lega andremo avanti fino al 2013, però dicevamo in questi giorni si diffondono sondaggi sulle intenzioni di voto degli elettori. Come si stanno muovendo i flussi elettorali? Quanto potrebbero incidere le nuove alleanze e anche le inchieste in corso? Maria Luisa Pezzali lo ha chiesto al politologo Roberto Dalimonte, che insegna scienze della politica alla LUIS. L'unica cosa sicura è che c'è una altissima percentuale di elettori che non rispondono alla domanda sulla intenzione di voto. Tutti i sondaggi dicono che il 40% e più di intervistati non rispondono a questa domanda. Questo dato è il dato più importante per capire, perché quando c'è il 40% di persone che non rispondono, il dato del voto al PDL o al PD ha un valore molto minore. Questo cosa vuol dire? Ci sono molte persone, soprattutto dal mio punto di vista, persone che hanno votato Berlusconi nelle ultime elezioni, che oggi sono confuse, forse anche arrabbiate, che potrebbero astenersi. però potrebbero anche non astenersi, quindi in realtà bisogna vedere che cosa succede, bisogna vedere se si farà la coalizione che vada Vendola Fini, io ne dubito, bisogna vedere se si farà la coalizione che comprende Bersani, Vendola e Di Pietro, quindi il fatto che non ci sia una proposta chiara dall'altra parte è un altro motivo per cui il valore di questi sondaggi è molto molto relativo. In questo scenario la scelta dei candidati premier da una parte e dall'altra quanto è in grado di spostare, quanto pesa? Pesa. Se dall'altra parte, diciamo dalla parte delle opposizioni, ci fosse una proposta chiara, Berlusconi sarebbe nei guai, è già nei guai, diciamo relativamente parlando, però può recuperare. Se di là ci fosse una proposta chiara, il recupero di Berlusconi in campagna elettorale sarebbe più difficile. Il dato forte, insomma, è che c'è molta indecisione. Esattamente, c'è una grande incertezza, c'è una grande fluidità, quindi questo vuol dire che ci sono anche grandi opportunità. Perché quando c'è una fluidità elettorale vuol dire che i vecchi allineamenti, le vecchie concentrazioni di voto si stanno sfaldando, che Berlusconi, il consenso Berlusconi non sta franando, però è chiaro che siamo in presenza di un'erosione, il che vuol dire che appunto ci sono questi, noi li chiamiamo disallineamenti, riallineamenti, quindi c'è una situazione di fluidità che offre delle grandi opportunità. Per cogliere queste grandi opportunità ci vuole una proposta chiara, fatta di una coalizione, un leader, un programma. Così dunque il politologo Roberto Dalimonte, e come sentivamo anche nelle sue parole, il quadro delle alleanze politiche potrebbe condizionare e condizionerà il voto prossimamente, qualora il governo non dovesse farcela come l'opposizione ritiene nei prossimi mesi, oppure fra due anni, qualora invece il governo dovesse andare fino alla fine della legislatura. Anche di questo ha parlato il nostro Andrea Viali con Matteo Renzi, sindaco di Firenze, e anche della proposta fatta dalla leader di Sinistra e Libertà, Nichi Vendola, di candidare Rosi Bindi per il centro-sinistra. Renzi, che oggi presentava il suo nuovo libro, sentiamo. In questo momento ci sarebbe bisogno di qualche idea forte, che è più importante ancora del leader forte. La discussione sul leader è una discussione che è giusta, è fondamentale, ma che può essere fatta quando si è chiarito definitivamente quali sono i valori guida del centro-sinistra. Se noi pensiamo di continuare soltanto ad affidare a uno, o meglio ai soliti noti, la discussione su chi deve essere il leader, non si va da nessuna parte. Adesso si esca dalla ossessione per ciò che sta accadendo tra berlusconiani e antiberlusconiani e poi al momento debito si faccia le primarie e chi sarà il più votato sarà anche il candidato leader. C'è anche chi propone Rosi Bindi. Io credo che ci sia bisogno di uno scatto generazionale, mi piace molto l'idea di una donna come leader del centro-sinistra, ma credo che non si possa sempre soltanto ricorrere ai soliti nomi. Dal mio punto di vista, naturalmente, poi i nomi dovranno essere valutati dalle primarie, per cui chi vorrà si presenterà la propria candidatura e magari mettiamo una persona capace di vincere, perché se dobbiamo mettere soltanto una persona per testimonianza non si va da nessuna parte. E fin qua dunque la lunga pagina dedicata anche alla politica. Adesso cambiamo decisamente argomento, andiamo al Festival di Sanremo. Ieri serata molto positiva per il debutto di Gianni Morandi, perché oggi i dati parlano degli ascolti che hanno superato la prima serata dell'edizione targata Antonella Clerici. Questo naturalmente darà fiducia un po' a tutto il gruppo. Marta Cagnola, che è lì a Sanremo, è così? Buongiorno, che aria tira oggi? Buongiorno a tutti. Continuiamo allora con le metafore atmosferiche e meteorologiche, perché Gianni Morandi, un po' citandosi, ha esordito dicendo: il sole splende su Sanremo anche se scende la pioggia. Erano molto tesi fino a ieri e oggi Gianni Morandi era anche un po' commosso, devo dire davvero emozionato, sinceramente emozionato. Cosa è successo? Gli ascolti della prima serata sono i più alti dal 2005. 11.992.000 spettatori, pari a uno share del 46,39. La Clerici l'anno scorso aveva fatto il 45,29 con 10.717.000 spettatori. Ovviamente adesso, come da copioni, tutti dicono: no, aspettiamo la serata finale per fare un bilancio. Certo è che se la prima serata va bene, può andare bene il festival; se la prima serata va male, il festival andrà male. I complimenti soprattutto per Luca e Paolo, anche da parte del sindaco Zoccarato, che è del Popolo della Libertà, e del direttore di Rai 1 Massa, che ha rivendicato la libertà editoriale in Rai. L'attenzione adesso è tutta sui preparativi della serata di domani, perché la serata del 150esimo Morandi e Massi sono già scappati da Roberto Benigni, perché devono decidere cosa sarà il premio Oscar per domani. Non sarà facile, perché credo che Benigni, non so se si fa dettare la scaletta. Non si fa dettare la scaletta, però molto probabilmente, insomma, quello che per ora è previsto è che Benigni racconti la nascita dell'inno di Mameli. Certo. Ci saranno molte cose, perché vabbè, intanto la serata comincerà prima alle 20:40, poi addirittura arriveranno le frecce tricolori su Sanremo, ci saranno i fuochi d'artificio per il red carpet, insomma sono un po' le prove generali di delle manifestazioni del 17 marzo, in minor, però qualcosa si sta già provando, ecco. 13:19, GR24, ben ritrovati. Nella prima parte abbiamo parlato del governo che ha siglato con le imprese un accordo sul credito delle aziende. Per il ministro dell'economia Giulio Tremonti è il momento di puntare sulla crescita. Approvato al Senato il voto di fiducia sul mille proroghe. Il Partito Democratico però attacca, dice la Finocchiaro, è una finanziaria pasticcio, mentre si divide il gruppo di Futuro e Libertà. Poi siamo andati a Sanremo, dove la prima serata del festival targato Morandi ha registrato un record di ascolti. Adesso le altre notizie, a cominciare dalla situazione a Lampedusa. Eh sì, perché andiamo sull'isola siciliana con l'inviato del Sole 24 Ore Mariano Maugeri per capire qual è la situazione sull'isola quando ci sono ancora circa 2000 immigrati, almeno quello che sappiamo noi da qua, e però si temono altri sbarchi soprattutto, Mariano. Sì, è stato avvistato ancora in acque tunisine un barcone di 45-50 metri, potrebbe contenere almeno 500 immigrati. E la cosa, insomma, che fa un po' impressione è che oggi il vento è molto forte, c'è mare forza 4 con un vento di libeccio che è un po' la bestia nera dei pescatori lampedusani, e quindi non ci si aspettava, come aveva detto nei giorni scorsi il ministro Maroni, che con queste condizioni meteo i clandestini si avventurassero in mare. Sarebbe un pessimo segnale, adesso aspettiamo di avere conferme nelle prossime ore. L'altra notizia inquietante è che sono stati cancellati 4 voli che appunto dovevano partire oggi dall'aeroporto di Lampedusa per portare 400 immigrati nelle varie destinazioni dei centri di accoglienza sparsi per l'Italia. Il direttore dell'aeroporto ci ha confermato che i 4 aerei addirittura non erano stati schedulati, quindi è una voce che si è sparsa ma non ha trovato conferma. Mariano, invece, per quanto riguarda l'ipotesi di cui ieri ha parlato il ministro Maroni, cioè del residence militare dalle parti di Catania, dovrebbe avere tempi lunghi perché dovrebbe riguardare richiedenti diritto d'asilo, e così ti risulta questa notizia? Esatto, ma qui sta il problema, non si capisce bene che status abbiano gli immigrati che sono in questo momento a Lampedusa, se sono profughi, se sono clandestini o se sono richiedenti asilo politico. Tutti ci hanno ripetuto che la loro meta finale è la Francia o la Germania, e come sappiamo, in base alla legge Bossi-Fini, gli immigrati chiedono asilo politico al paese finale di destinazione, perché se lo chiedessero in Italia sarebbero costretti a rimanere in Italia. Quindi questi cavilli, come dire, burocratici, in qualche modo impediscono di chiarire quale sia la situazione e fatto la mantengono così com'è. Quindi 2000 clandestini in questo momento a Lampedusa, i voli che dovrebbero appunto portarli nella penisola non partono, e qui, come la situazione dire, è ancora incerta. Inevitabilmente cresce, perché gli abitanti si sono solidali, sono disponibili, però questa situazione in qualche modo dovrebbe avere dei tempi molto molto più stretti. Grazie allora Mariano Maugeri da Lampedusa. E adesso ci spostiamo restiamo in qualche modo sul Mediterraneo, sul fronte nord africano, nel mondo arabo, perché la tensione in queste ore si sta diffondendo in diversi paesi, dalla Tunisia all'Egitto, adesso anche in Iran, lo sappiamo, ci sono stati scontri ieri, ne parleremo tra poco, e anche in Libia. Andiamo però al Cairo, dove c'è l'inviato del Sole 24 Ore Alberto Negri, per fare il punto sulla situazione in Egitto e anche per vedere da lì qual è invece il rischio di questo contagio in tutto il mondo arabo. Alberto, buongiorno. Buongiorno a voi. Cominciamo con la cronaca. Oggi al Cairo che ore si stanno vivendo in questo momento? Io spero che la cronaca la legga qualcuno, perché sai, qua siamo pieni di esperti nel nostro paese, anche sul nostro giornale, che ci vengono a spiegare dopo, ma soltanto dopo, che cosa succede da queste parti. Se leggessero i giornali ogni tanto se ne accorgerebbero. Che cosa succede qui al Cairo? Al Cairo succede che continuano gli scioperi, nonostante i moniti dei militari, scioperi nelle fabbriche, scioperi nelle banche, le banche sono ancora chiuse, e intanto l'esercito cerca di accelerare il passaggio di potere ai civili, ha annunciato che ci sarà il referendum costituzionale entro 2 mesi. Qua i militari hanno sempre comandato, dai tempi di Nasser nel 1952 col colpo di Stato, ma non hanno mai governato, e governare è un'altra cosa, vuol dire affrontare i seri problemi sociali ed economici di questo paese. Alberto, dicevamo, le tensioni che si stanno diffondendo, partite dall'Egitto, anzi dalla Tunisia, e adesso sono in Iran, ma riguardano anche lo Yemen, il Bahrain, situazioni naturalmente molto diverse, come anche nella vicina Libia. Che cosa si può dire però di questa ondata di proteste, proprio vedendole lì dal Cairo, dove la maggiore protesta in qualche modo non è ancora finita? Ma io credo che il fronte che a noi interessa in questo momento è proprio l'Italia, di più la Libia. Perché? Perché è anche chiaro, da quali che sono i rapporti dei nostri servizi di intelligence, che Gheddafi ha una forte responsabilità anche in questa emorragia di flussi migratori, perché dalla Libia sono passati, dalla Tunisia sono passati in Libia, dalla Libia arrivano, partono, vanno e vengono, e Gheddafi e i suoi non hanno assolutamente informato le autorità italiane, nonostante gli accordi, nonostante i soldi versati a questo regime, francamente molto, ma molto, davvero un regime un po' con aspetti un po' cialtronici, diciamoci la verità, ricordiamocelo, questo colonnello che è arrivato al potere nel 69, 41 anni fa, è arrivato ad agosto in Italia a fare una sorta di carnevalata, ve la ricordate tutti, come si può essere affidabile un paese di questo genere? È anche abbastanza, forse, come dire, fisiologico che dopo tanti anni ci sia un'opposizione anche lì, un'opposizione che ha almeno 2 o 3 motivi. Una parte, c'è una questione regionale, la Cirenaica, che è la madre della senussia, cioè della monarchia, ha sempre avuto guardato male Tripoli, il governo centrale, poi ci sono rivendicazioni di vario genere. Certo, è un paese ricco, pieno di petrolio, ma il petrolio può non bastare dopo tanto tempo a tenere in piedi un signore che, ricordiamocelo, ne ha fatte di tutti i colori. Insomma, anche la Libia potrebbe rischiare. Grazie Alberto Negri dal Cairo, e staremo a vedere naturalmente nelle prossime ore quello che succederà. Adesso però cambiamo completamente scenario, ci distendiamo un po', se vogliamo parliamo di calcio. Dopo il KO del Milan ieri sera nell'andata degli ottavi di finale di Champions League in casa con il Tottenham, stasera tocca alla Roma con lo Shakhtar Donetsk. Sentiamo. Gli americani sono alla finestra, spettatori interessati. Da ieri infatti la cordata di Thomas Di Benedetto ha 1 mese per concludere l'acquisto del club giallorosso. Sul campo invece la Roma un bel pezzo del suo futuro se lo gioca già stasera. Dopo il KO interno col Napoli, le faide e i lunghi coltelli nello spogliatoio, i vertici con società e senatori, Ranieri ci mette la faccia e allontana le ombre che si allungano sulla sua panchina. Non chiedetelo a me se viene Montella, se viene... No, io credo che questi siano gossip romani che bisogna saperli accettare, credo che sia l'amore verso la propria squadra, no? Parole che subito rimettono in riga la truppa, almeno a sentire Philippe Mexès. Non abbiamo problemi tra di noi, siamo sempre gli stessi giocatori, la stessa squadra, anche quando le cose vanno bene va pure male ogni tanto. Tamponato il fronte interno, occhio però allo Shakhtar Donetsk. In panca una vecchia volpe come Lucesco, in bacheca già una Coppa UEFA, in campo un manipolo di talentuosi brasiliani. Insomma, servirà massima attenzione per non deludere lo zio d'America Di Benedetto. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione, vi lasciamo all'aggiornamento di borse, poi Italia in controluce, col GR ci risentiamo alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.